continua. Oh, sarà per quello allora. Cioè se lo dovessi mettere al massimo, cazzo, lo sollevare ancora, mi faccio sordo, quindi qualcosa per quello lo sollevare. Non c'entra niente. Il tavolo più 3, la differenza solo che c'è tra quello grigio e il Super Sideric è notevole, ok? Ma tra il tavolo più 3B e il Super Sideric sono uguali, precisi e identici. La capsula è uguale, la stessa capsula. Solo che Super Sideric mi sembra che abbia, diciamo, il cono, va, quello invece inserita la capsula all'interno, quello lì sia tutto cromato, mi sembra, no? Mi pare una cosa del genere. No, è dorato, capito, è dorato. È una sagoma che l'hanno fatto diversa, e l'hanno chiamato Super Sideric. Sono tutti missaldi. Non sei, ma io sei, ma cosa stai dicendo? Turner e Turner, il Turner più 3 sono tutti uguali. C'è una differenza tra il Turner più 3B e il Turner più 3A, che è quello praticamente grigio, quello non serve a niente. Telefono. Guarda dai, mi qua su eBay ce n'è uno, 200 euro, se lo vuoi già, fino a vero disposizione. Via, che ci racconto. E io pure andrei a salire qui là anche. Non dico, 200 euro, capito? Ma si trovava 80 euro tranquillamente prima, adesso sono esagerati, boh. Vabbè, aspetta, tra un anno e poi te li danno 20 euro. Con 200 euro c'è solo un Sennheiser. Aspetta già, io te ne mando uno, perché secondo me su questo qua te lo compri il microfono, è troppo bello. 35 euro più 10 di spedizione, è un Vintage CTA International. Se vedi questo microfono te lo stai comprando subito. Vediamolo. Guarda, è troppo carino, troppo bellino. Però vediamo la Cavarogio, allora questo non ti piace già. C'è anche l'Ecodoppo. L'Ecodoppo fa quello. A fare basta l'Ecodoppo. La coloscopia, chi la vuole? Dalle buio. Molto fresca con la salsiccia ancora. Certo, già perché da rimane. Ma non c'è fitta nella buia, lui. Sì, la tu. Certo, se la mia va fetta più, troppo dolce è diventata. No, troppo secca. Oh Luca, guarda che ti ho mandato quel microfono, guarda se l'hai mai visto. E io sei su garaggio, che tu vai verso la barba. No, invece è troppo bellino secondo me. Chi è che vuole entrare? Avanti? Vai, rubra a te. Eia, vi devo lasciare un attimino perché devo sbrigare roba, dai, ci sentiamo tra poco. Andare a vedere come lo drero. Ah, sì. Ma non è giugno. È carino però, eh? Della città pure. Ma è troppo bellino. Per quello che lo stanno dando. Ce n'era uno, mi sembra che l'avevo mandato a te. Quindi, Danilo. Gianni. Dimmi, lasci immediato. Lo sai, mi sembra che ce l'abbia un microfono bellino da palmo, tipo quello che tu hai commentato a una persona su Facebook da poco, quello da palmare. Mi sembra che quello ce l'abbia, Sandro. Tigre. Mi pare. Io mi sembra di averlo visto a lui, il Turner più 2 da palmo mi sembra che abbia lui. Quello è bello, più 2-1. Mi sembra che sia più 2-1, sì, è sul... rimane sul verdolino, celestino, un colore un po' metallizzato sembra. Allora il grigio davanti e celeste dietro, lo so a memoria perché l'ho avuto. Sì, mi sembra che adesso non so, io ti parlo un po' di tempo fa, quindi adesso non so se ce l'ha più e che fine abbia fatto. Vabbè. Chissà se ce l'ha ancora. Vabbè, ma se mi dirà, già, visto, avete quel microfono. No, aspetta un attimo, come l'hanno mandato, la motorizzata. Ma te l'ho già mandato. Ma è molto bello, secondo me c'è anche bene questo microfono. Sì, me l'hai mandato, mi sembra che l'abbiano anche venduto. Grazie a quel prezzo, secondo me sì. È un bel bellino. Vabbè, che ci vuoi fare? C'è un Galaxy brutto, originale, 230 euro. Su Facebook. Ce n'era uno nel negozio dell'usato, 50 euro, non so chi se l'ha comprato, se l'ha andato io non ce l'avevo più. E quale negozio dell'usato? Quello dietro la piazzetta, lì era. 50 euro, si poteva comprare. Vabbè, 50 euro già si può prendere, sì. Fate che ne spendi 50 per sistemarlo, che sia... Oh, ma è mio, 50 euro te lo faccio. E c'è un punto. C'era un Turner, 40 euro, non l'avete visto? Quale? Su Facebook. Non ti sa mai bene, in che mercatino sei? Su ci scrivi tu per trovare il microfono? Scrivi il nome del microfono. Va bene, mi è venuto. E c'è scritto Tano P3B e non mi è venuto. Ma ti scrivo un plus, capito? Però sto cercando. 40 euro sta guadagnando. Oppure fare scambio. Sarà quello girato a Gianni, non lo so. Bene. Cappa, bene bene. Chi sei, Danilo? Ah, io già, riprendi, doppio. Aspetta un secondo, lasci vedere che sto rispondendo a una persona. Ah, ok, va, vabbè. Hola. Vai, Marco. Una curiosità, Massimiliano, tu che magari te ne intendi. Quanto può valere un presidente Lincoln? Io a vedere il fatto questo sembra nuovo di negozio, con tanto di scatola, pomelli, staffa, amico originale, manuale, sembra un residuo di magazzino. Qua lo sta dando a un prezzo folle, su Roger K. Per amatori, no, folle no, 200 euro. In base alla radio comunque, perché viaggiano dai 150, 180, 170, 200, capito? Se è nuovo 200 euro si può prendere, 180, to. No, le foto sono un po' sfumate, boh, non so se siano sfumate ad arte, ma sembra nuovo di trinca, è una cosa allucinante. Nuovo di trinca, 200 euro trattabili con la spedizione, eccetera. Ma carino, ma alla fine, cioè... Alla fine è stato gli affari che ti piacciono, Marco. Ma io sinceramente parlando, a me la radio che non mi è mai piaciuta. Allora ce n'è uno 80 euro più 3B, nero, quello nero. Quanto? 80. Ma dimmi il nome che ti dico se l'ho già contattato, mi sembra l'ha venduto. Luca. Falco, Fiocco, la dove vuoi? L'ha già venduto. E poi non ce ne sono altri, quello da 40 euro sicuramente l'ha dato al volo. Vai Marco. Va bene, io saluto tutti di nuovo, ero entrato per chiedere questa quotazione, se accettabile, ho visto anche cose folli, baracchini di quell'epoca, anche prima, anche più vecchi, per amatori 450 euro, un baracchino MFMSB, tipo Tristar 848, Agin Quinto, no, quello il mio è particolare, e prezzi da amatori però, da amatori benestanti aggiungo. Ma in che sito si va? No, parlo in generale, questo Lincoln su Roger K, mercatino di Roger K. E invece in altre occasioni ho visto roba venduta a prezzi da, cioè all'anima, cioè lì ci viene roba grossa e con lo stesso costo. Ripeto, prezzi da amatore benestante, molto benestante. Beh, detto ciò vado a pappare. Ciao a tutti, riprendi Gianni. Ciao Marco, dai. Ci sentiamo magari più tardi. Buon appetito. Avanti, ciao Marco, buona carichetta e ci sentiamo più tardi se coincide. I pezzi sono fatti sì, furiosi, pure. Cioè, sono dei Alan 48 che hanno i 120 canali, solo la M, 450 euro, 500 euro, ma no, dai. Vabbè, poi quelli sono gusti, io non li ho mai spesi così tanti soldi per un Alan 48, devo essere sincero, però c'è gente che li piace e se lo compra. Io al massimo che ho speso per un quadro per 450 euro. Poi due. Sì, ma dico, l'ho speso perché mi piaceva, se no non l'avrei preso. Sì, già, ma guarda, non per me perché un Alan 48, ma io non lo spenderei mai più soldi per un Alan 48. Io ti ripeto, così tanti non li ho mai speso. Però con 400, 450 euro prenderei più una radio, più un 8001, un brutto, una radio che puoi usare anche cioè, in diverse maniere, capito? Cioè, non guarda tutto, non fa gli affabili da casa. No, non fa. Ho provato a tenerlo, l'ho venuto per quello perché prendevo tutti i colpi. No, non fa a casa, in macchina però era un mostro, arrivava tutte le parti, tu pensa che era il portatore e arrivava anche la Finangelo, figura. No, per quello è una radio che ci presta molto le modifiche, su quello non ci piove già, c'è una bella modulazione, tutto quello che vuoi, ma magari fatti gli accolti. Aspetta che questo qua non sta. Allora io sono un buon nessuno, vai. No, già lui. Sono un microfono. Perché mi vendi vecchio? Sono sassista, bobo. Ma che tu sassista vuoi, Massimo? No, no, non lo voglio. Adesso domani essendo l'altra. L'altra serata, anche la prima si è già uscita, capito? Praticamente già, come asciuga è già venduta pure. Io no, non la prendo perché io ho mio cognato che fa l'allevatore, capito? Quindi la prendo da lui, là. Lo fai bene. Sì, tipo molto così. Io la prendo al centro carne, allo spazio delle carni, è buonissima quella che fa. Ma buona veramente. Io apro rubata e non costa niente a me. Non va bene, no? Rubata. Non arrivare. Ah no. No, no, vengo anch'io. E qual è il problema? Andiamo a usilo assieme e ci facciamo dare la salsiccia. No, è amico a Francesco, Giulio. No. Non sai chi è Francesco a me. Non me frega niente chi è Francesco, la verità. Però se salgo sulla usilo io, a me la salsiccia me la danno. Hai capito? Quindi sono a posto, almeno quello. Cappa, cappa. Vabbè, ok. Basta che io mi un paio di baracchini di quegli vecchi e mi dà due o tre salsicce a pelle. Dopodiché mi fa assaggiare, prima di quello, fa assaggiare la salsiccia, fa assaggiare le cipolline, fate la lui, il prosciutto, quello che è, il vino, eccetera, eccetera, dopodiché vieni. Vieni da casa, aspetta un secondo. Ah, non viene la prima, ma la visione. Vendo tranne più 3, 150 euro. È mio, lo prendo io immediatamente, sto arrivando. A te te lo regalo. Cappa, Claudio. Dimmi. Ma che questo comunque è molto ricercato questo microfono, Ma io il microfono ce l'ho a vedere. Che cosa sto usando io? Ma quale stai usando? Quello di Claudio. Ehi. Ho avuto, ti ho detto, ho venduto, è un barragione. Eppure se guardi i prezzi sono più alti del Turner, è a pensare che è tutto di plastica. Ehi, vabbè, ognuno può poi pure i modelli in vendita a 50 euro l'una, cosa metterla? Quel microfono vale 70-80 euro, non di più. Infatti l'ho venduto a 70 euro, ma è troppo grande, è troppo un barragione. Se vedi quello della Perception, guarda quello, solo tutto in ferro cromato, ed è un barragione non a tesi, con l'asta che sale e scende, capito? Però è un bel microfono, esce molto bene, esce molto bene. Va bene, dai, comunque, vendo sempre Turner più 3, B 150 euro, capito? E poi una busta di viti anche. Sempre del microfono, così è. Tu vai alla casba, va. Cosa? Che serve la casba, compro quello scambio. Lo so, ma manco ci mi dai dei 200, sono nuovi, assolutamente, ma manco per sogno. Va bene, io ce l'ho già, Luca, questo, secondo puntino dopo lo zero, fatico, cioè il primo puntino dopo lo zero, praticamente era già uno, cosa vuoi, ancora amplificare voi? Io sto vendendo 3.900, ma ti interessa. Se me lo dai al prezzo che mi hai detto, portamelo stasera quando sali a Sassari che te lo compro io. Così lo metto l'armadio assieme all'altro. Va bene. Portamelo, Silvia. Se il prezzo che mi hai detto a me, quello modificato. Allora quale? Portamelo, lo metto assieme all'altro, tanto così ne ho due modificati. Faccio la collezione anche di quelli. Mi hanno chiamato adesso. Poi ti mando un locale, Massimiliano. Ho rifiutato un'altra radio, ho rifiutato. A regalo, due citi, l'ho rifiutata perché non ne voglio più sapere, basta. Sì, vabbè, tu fammi sapere, non ci sa mai, a voi. Facciamo un po' di commercio qua a Sassari, a conto di vacchita, borgo, lì, ma va. Visto ne ho messo tre in vendita io. Cosa ne va, intanto? Mi sono già rotto le scatole, no? Sono già troppe, capito? Quindi, quelle che non uso le vendo, mi tengo quelle che uso, e boh, 3-4, non di più, dai. Sto spendendo troppi soldi incazzate, per dirla chiaro, chiaramente. bene, c'è tutto, cosa vuoi che dica? Io come due spicchi di cacciola li conservo, non ci sa mai se cambia idea. Se lo cambiarmi, questo è il pupillo oramai, il galacciato netto. Cortami più tre da tavolo, poi mi tengo il 574 della Midland e il 294 di noi. Tutti gli altri li ho già messi in vendita. Vabbè, allora, quando ti arriva quello ti fa cambiare le finestre, lo prendo anche quello. Va bene. Ma le divertite a tu, io era quello. Perché oramai ne ho già tante, sono... ancora deve arrivare alle 4.30, quindi che al centro assistenza poi deciderò cosa fare, ma te l'ho già detto, se cambio casa l'era Sparviero è finita, arrangetevi, brieddi, freddi, tanto oramai siamo arrivati alla frutta. Mi pare che mi dico una volta a carrozzella, 400 euro qua, c'è una volta a carrozzella. Vabbè, Gianni, non più ru, Luca, ma non riprende più nessuno. Sì, avete anche parlato in due, piano piano, uno alla volta, senza spingere. Perché bisogna rilanciare. Cazzo, non è che potremmo vabbè da giù io. Non state sempre frugando facendo, va? Ho detto, bisogna rilanciare. E chi viene rilanciato parla, se no davvero qua vediamo in 4-5, andiamo via. A me dice. No, abbiamo ripreso un po' tutti i tuoi passieri, va? Vai Gianni! Ho detto, cosa ti hai pigliato? Andiamo a prendere la motocarrozzera, andiamo a vendere i miloni. E allora, si sta avvicinando il tempo dei cetrioli, dei pomodori, delle angure, meloni, qualche viaggetto di 3-4 quintali di legna, baccagliti. E oggi ho visto un bel di gente prendendo carciofi di usi. Non vedi, la notte si può andare a rubare, lì non arriva a prendere. E allora, così si fa, basta che non ti tiri le cacce qui figurata. Devi stare attento, lo biombo sicuramente. Cazzo, cazzo. Claudio, che cosa stai vendendo, dimmi. Portante, tu cosa stai vendendo? Cos'è questo? L'avvento? Io l'avvento l'alimentatore. Ah, no, non sto vendendo niente, io non già. Sto scherzando, già lo sai, io non vendo niente. Oramai, non voglio nulla, già devo vendere. Quattro barattini cagati. Ma secondo me ti ho fatto male, ti vedo la radio bella e ti bilando i vintage. Bastava fare tutti e due, lasciate l'uno all'altro. Prendevi qualche vintage e basta, e le altre le lasciate. E che cosa vuoi lasciare? Ma gli HF 600? Ah. Ehi, ha detto qua. Ho capito, Gianni, Claudio, non vado a sui segnali. Ma Claudio, non dimenticare che è sempre a torre di controllo. Ma Gianni è troppo amplificato. Cosa hai detto, Gianni? Non ti ho capito. Ti lasciavi? Cazzo, vedi, va a vedere in quattro. Cosa hai detto, Gianni? E senti? Ho detto, potevi lasciarti la radio grande e comprare qualche HF. Così ci avevi l'uno e l'altro. HF? Ah, boh. Adesso io quando parlo tu non ascolti. Ma HF ce l'ho sempre. Ho mandato il 430 al centro assistenza per farmi una bella revisione. Mi ho venduto il 440, 240 e non ne voglio più sentire di HF, va bene uno. Poi dei baracchini cosa c'ho io? C'ho il gas Saturneco, il 574 e l'Inuit che uso, gli altri sono tutti in esposizione, e il DAC che ho staccato anche la spina, capito? Gli altri sono tutti in esposizione, ho solo il gas io che uso e basta, gli altri li uso poco. E fai bene, perché il gas è una signora rara. Soprattutto questa. Secondo me Gianni con questa compra un bel. Gianni te lo compri questo la radio. Che cos'è? E 7 Zorussi. Cos'è? E 7 Zorussi. No, è buio a casa. Io tengo solo baracchini a casa. Io uno non ce l'ho, ma perché lo posso detenere, altrimenti se la vivi a Bugadu da me sarebbe. Non c'ho più antenne già, non c'ho più niente, oramai ho solo il baracchino blu. Come vedi lascio sempre il bip proprio per modulare col baracchino. L'altro, non lo so, quando arriva al 4.30, che è revisionato dopo 10 anni, l'ho mandato a revisionare, le attaccherò l'antenna normale, ascoltare un po' di HF, ma no, non è che mi interessi più di tanto. macchine di base ne ho, però qualcuno lo faccio fuori, ne ho messo qualcuno anche in vendita, perché stanno diventando troppi, capito? Mi tengo il Galaxy al 3-2-3 e basta, al 4-30, buh. Che ce l'ho meglio a usare? Cosa ve lo be? Il 4-30. Quando arriva, se ti prenoti non c'è problema. Mi adesso metto in vendita questo. Alla fila. Ecco. Non basta che ci ha giurato che appena revisionato. E questo non mi ha ancora chiamato Vittorio. No, è arrivato martedì, vabbè, oggi è giovedì, quindi lasciamoglielo fare con tranquillità, poi mi chiamerà lui quando è pronto. Guarda che mi ha dato un messaggio, leggilo Claudio. Ah, amore. Mi metto in seconda fila questa volta. Luca, per microfono master fuso cos'è? Quanto è alto più o meno? A occhio e croce. Il master pro non sei che è comodo già, perché il gambo lo puoi abbassare fino a chiuderlo. Va benissimo. Se va benissimo, ti mando il video. Lo puoi chiudere e parlare anche col microfono chiuso. Praticamente quando è chiuso sono 7 centimetri. Boh. Quello che stavo facendo con i fisci stasera? Quello era un palmare. Ci faccio un pensierino, perché se va bene qua per il gas, chi ha accorciato? 2009, gas, quella tranquillice. No, per lì come l'ho fatto già. Io sei una torre alla ciamba, capito, te lo giambi. Ti mando le foto se ti interessa, il video, usandolo, boh. Quanto è l'ultimo prezzo? 60, dai. Credo sia un buon prezzo, il microfono è nuovo, c'ha il modulometro anche, capito? L'eco, il beep, te lo faccio sentire col beep, guardami. Aspetta, te lo piazzo, che è questo lo sciure. Tempo vai giù di uno, va. Ah, tanto è feo, ma di più è feo il microfono. Sì, è brutto effetticamente, però la funzionalità è bella qua, esce bene. Lo so, a me se non mi piace, io ho un SBE, se qualcuno vuole fare scambio con qualche altra cosa, un SBE da tavolo. Domani mi vedrò con l'SBE, un attimo, mi beggio il danno più 3, vai e trova l'SBE come quella, hai visto quanto è nuovo, Don Massimiliano? Nuovo. Ce n'è una vendita l'SBE. 80 euro. Quanto? 80. Hai visto? Vabbè, a me manco se non erano 100, è fiammante il mio, fiammante. Anzi, adesso te l'attacco, aspetta, che c'è la connessione a 4. Ciao. Sempre con questa radio, mi coltane, cioè con il qualcosa, come si chiama, cazzo? Col Galaxy, aspetta che lo prendo dentro l'armadio, c'è anche la batteria attaccata. A voi mi dovrei la riposta. Gianni, allora, guarda, adesso ti metto, c'è il tastino dietro per il bip, guarda. Lo sentite il bip, però l'eco non è inviato, troppo alto. L'eco lo tolgo. C'ha sia la velocità dell'eco che l'amplificazione adesso ce l'ho a 2 praticamente. Ah, questo va. Guarda, c'è un momento l'amplificazione. Andiamo bene con l'amplificazione, esce bene. Fammi sentire l'eco, Luca. Allora, guarda se c'è l'eco, Massimiliano. A 8 e a 7 anche. Sì, che c'è, mettere la velocità. Guarda se c'è la velocità, non so, dovrebbe essere questa. Va bene, Luca, va bene. Lui, mi ha mandato un messaggio. Cappa già. Aspetta che attacco l'SBE. Massimiliano, te lo faccio sentire, se esce bene. Chiara, raga, ma allora l'eco non è bello, vero? Aspetta che provo a attaccare il coso. Non ce la posso attaccare perché non ce l'ha più uguale, stavo verificando. Volevo attaccare il box nel 2009, aveva comandato. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi sentite? Cambio? Ci sentiamo forte e chiaro. E come forte e chiaro? Meglio o peggio del Tana più 3, questo è un SBA di tavola. Più o meno uguale. Troppo alto, abbassa un po' la marca di livello. Troppo alto, ce l'ho a 5, lo abbasso. Allora, abbasso che facendo il butto, no? Perché devo bizzarti anche la radio, no? Guarda, vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene, va così. Uguale a prima. Uguale all'altra più 3. Uguale alla prima, questo, non è che ha abbassato più di tanto. Ti sono viaggio a 2, hai scelto la bonga 1. Allora, così è a 1, 1, 1 e mezzo, te. Mettilo a 2. Così è a 2, guarda vedere, 1, 2, 3, 4. A 2 va bene, vedi qua. Non sei troppo attento, ma è bella presente, così va bene. E allora lo mettiamo a 2, già va bene. Luca, da te bene va. C'è una canonata, ce te l'ho detto, e poi nuovo, hai visto? Ah, no, mi ha fatto bene Luca. Ciò che è caro, la massa nelle varie, 100 euro, che... Vabbè, ma è a livello di partner quello, eh. Non so, infatti gli altri volentieri perché è nuovo nuovo. Non ne hai altri, Luca? Chi sono i biasi? Lo sciure stai vendendo? No, lo sciure non è il mio, è di Claudio. No, no, quello di come cosa di estetica non mi piace. Questo l'SB è bello, si assomiglia a un FB più 5, a un Turner, un po' più basso, rimasto, è bello, va. Ti piace Massimiliano? Cosa mi dai? Me lo dai quel baby cool che c'hai fuori, ti do il microfono. Bene, dimmi su là, le bandolini, le traversine del cane, quello dove fa la pipì la volta, quelle. Quelle bianche? Ci sono anche ceretti. Ma se mi faccio una bella offerta, tanto dalle piccole non lo posso operare. Ma no, no, no, però deve essere una bella offerta. 150! Che sta matto di nevaia! Non ti compresi! Per un bimbo, ah, chi c'ha la bastante! E se mi basta anche l'uno, è 150! Beh, te lo lascio nella mattina del cofano, nella macchina, passa a quello. Se sali stasera che vai a Sassari di là, passati dei soldi, se no te li metto al solito posto. Ci mettiamo d'accordo con tuo guapo, va. Va bene, io 150 guami. Sono già pronti sopra il tavolo, tocchi se due, vedi l'aria già pronta. Sto provando scambio. Sì Gianni, ma qua si fanno fatti, non parole. Tu vuoi comparare, ma non ti sento parlare di niente. Qua vedi, io ho già comprato un microfono, un altro Turner più 3, 150 euro. Poi Luca, 100 euro ho comprato l'SBE, adesso tu comprati quel catamarano, come si chiama? Salenta. E a chi? La macchina che c'è il tuo fidente non la ci buttare dalla bocca. Io hai comprato un attimo, ho dato il bagaglio 170 euro, quanto hai pagato? Ehi, 270 euro. 270? Chi la massa di nevaria? Fa un baracchino, ma è del 2009. Ma già si dice, vabbè, non l'ho pagato 270, l'ho pagato di più. Guarda, già lo sai, non fa un attimo. Sto già, c'ho la testa a fumo, se adesso stavo pensando a 3009, caro. Quello non è un baracchino, Gianni. Quello la puoi già chiamare una radio. Quella tu, io non mi offendo se la chiami radio. Perché ti posso garantire che quella è una radio. Ma quando tu chiami radio, un 3009, o un baracchino qualsiasi, allora io ti correggo. Ma lì non c'è niente. Se tu chiami quella radio, lì, col suo vero nome, radio, ti posso garantire che quella è una radio. Chiamami Gava. E già lo so, e lo so, e già lo sai che lo so, e so tutto. Anche quanto l'hai pagata, però quella è una radio. Ah, pensavo stavi parlando del 3009, 270 euro 3009, cazzo. No, io ho speso un sacco di soldi con i microfoni. Massimiliano, allora ok, 150, ma a me non mi bruciare. Passa a casa Massimiliano, rispetta a me quello lì che ti ho comprato anche la farina. Ha ragione, dalle 150 euro io non mi offendo. Se lo vende di meno, allora mi incasso. 150 euro le devi dare, tu come le sto offrendo io? Tu hai più vicino di chilometri. Vai, lo lascia a Claudio, va, non c'è problema. Cazzo, cosa stai facendo allo spiroggio? Ah, io, guarda che si rifare. Chi è più vicino di chilometri da casa mia? Chi c'è? Gianni o Claudio? Come chilometri, chi è più vicino? Luca. A truccatura magari arrivi prima da Reddo. No, Ah, Luca più vicino a voi. Ma giusto, ci fai la troncatura dalla Brittella, no? Passi dalla Brittella e arrivi prima alla Gianni. Positivo, ma avete la roba. No, che già avete visto che non se ne trovano. Non se ne trovano e si acciappi, bisogna vedere cosa acciappi. Io non detto, è stata cambiata a casa. Mi ricordo l'altro giorno comunque, era un affare del 100 euro più spedizione. Come era un affare, però non lo conosco. Ho capito Massimiliano, ma se erano i miei voti, io ti ho capito, il discorso l'abbiamo già fatto. Cioè io spendo 100 euro più, per dire, altre 10 spedizioni, 20 euro di spedizione, non lo so quanto può costare, capito? Però se poi arriva, non è come questo, l'ho comprato a Sassari, solo io lo sapevo che era Sassari questo Tana più 3, e questo SBE, solo io lo sapevo che era Sassari, questi due microfoni, li ho comprati volentieri perché me li hanno fatti provare prima. Altrimenti non ne avrei comprato, perché se ti mandano un microfono che mano esso, la capsula nella sua, il circuito è tutto accimbranato, e cioè ci hai buttato i soldi, capito? Sì, sì, è proprio così qua, l'incognita è quella, capito? Perché magari esteticamente te lo fanno vedere che è bello, tu bisogna vedere internamente cosa. Io conosco una persona che ce l'ha qua in zona. Non si consideri, però tutto mangiato dentro, non si può toccare. Ma io i superstiti che ne ho, quanto ne voglio, capito? Perché vado da un collezionista e me lo biglio, ma lo gioco che non funzionano. Non funziona, manco uno, tutti gracchiano, tutti vasili. Sono microfoni, questo era nuovo, questo è nuovo perché lo stavo usando. E l'SBE che mi ha fatto avere Luca, me l'ha fatto anche provare, capito? E poi è bello, ti ho mandato la foto, è nuovo, nuovo, colore originale, la scritta originale nella capsula, tutte le scritte nel microfono, a me non mi piacciono i gargardi. Ho messo nel tuo armadio due SBE, due MB più 5, che erano tutti vecchi, e me li sono comprati nuovi, ma non mi interessa a me, no, non li voglio io Mondessa. Vai Gianni vai, hai 150 euro, vai tu a prenderlo, vado io. Vai, prendilo tu, non c'è problema, io sono povero. Dai, povero, sto facendo girare gli apparecchi, questo qua è 3.900 col microfono normale. Povero era nonno, no tu no, tu non sei povero, tu c'hai il braccio corto. Ma già, sono da prendere con il 3.900, con la Static. Lo so, ce l'avevo già con la Static, però l'altro gli avevo aumentato l'LC, andava bene per quello. Chiami Cacamella! Tu pensi a Borgia? Tu sei bracetto gordo? No, sto scherzando già, poi ognuno spende quello che vuole, non mi interessa. Comunque quel microfono che c'ha Massimiliano se li va, come questo, come l'altro che c'ho. Sono microfoni introvabili, capito? K de Rosmetro. Ciao Luvaria. Purtroppo è così. Questi microfoni sono introvabili. E noi quando li troviamo li compriamo. Flipper, perché quando ti arrivo io? Bene? Flipper. Ah, sì, sto dire la satina. Sono andato lì, ma non c'ho bocce la magna. Minchia, le 7:30 sono. Eh sì. Vediamo un po' come va così. Brava, già. Questo qua è la Static, però è senza aumentare la lici, è normale come l'ho comprato. Oh, va, spingo un pochino più dell'altro, no? Va bene comunque. Ma non è come il Galaxy. Ma il Galaxy è aperto di modulazione, quello no. Quello se mi fai un lavoretto con 3.900, spingo contro il Galaxy, mi già lo usai, sì. Basta aprire la LC, già lo so, ve l'ho fatto nell'altro, l'altro ci va bene. Non basta solo aprire la LC, c'è una prima che la fa cosettino. Basta aprire. Per aprire è truccato. Sì. Per regolare un trimmerino non è che stai facendo niente di nulla, no? Lo so, però questo qui mi piacerebbe lasciarlo normale come è nato, è bellissimo, che ce l'ho fatta a comprarmelo nuovo, mi piace, l'altro era un po' nuovo me lo stesso, però preferisco dare a casa direttamente, e tutto l'altro io ho preso questo. K. ti rimetto il microfono, il coso, il turner, rimetto, dai. KK, avanti, chi vuole riprendere? Chi è entrato? Anche Luca? Sì, ho visto che si è accerato, l'ho salutato, ma con il pulso. Luca Flippo è sparito. Non lo so. Massimiliano, dai, mi sto mettendo il massimo nella barba, dai. A me se la morbidisce, ti vede tutta che la palla. Questa è la tanta piena di giù, Luigi. Perché qua, ma non mi capisco. Balsamo nella barba, Massimiliano. Il balsamo? Eia, quello... Che mazzata? Pro raso. Ma che sei qua, ma non è tu cosa, bro raso. Sei qua. E allora, buon balsamo, va, sentiamo dopo. Ma in realtà io non qua, ma sei tu che te lo dice. Ah, Luca Pedivella, che non sei altro. Oh, piano, è Berivella, che Berivella veniva giù, e sono io. Luca Caldarella. Oh, ma sì, devo fare una prova, allora, adesso, vabbè, ho rimesso l'altro microfono. Dimmi se senti differenza da questo passaggio, guarda, da questo passaggio a quest'altro passaggio, se va meglio, se è più alta, se la tonalità è buona. Non è pochissimo differenza, cioè sì, è buono tutto due passaggi. Così va bene, anche così. Sì, sì. C'è una levetta questo microfono. Hai visto il microfono, anche il tuo, il più 3B sotto, c'è una levetta, a cosa serve? Ma io compreso cosa ci. Se non cambia la tonalità, qualcuno si è accorto da questo passaggio a quest'altro passaggio cambia qualcosa? No, niente, classico, sicuramente lo stacca a batteria questo. Non uno non ha le volte. Non ce l'ha quella levetta vicino al PTT. Si sente, sotto non c'è una levetta. Una levettina, tipo quello dell'MC60. No. Questo c'è una levettina. Non ho capito. Quindi confermate che da così, 1, 2, 3, a così, 1, 2, 3 non cambia niente. Allora siamo già usciti con la levetta spenta. Non ho mai visto quello che fa la levetta, boh. Sì, c'è una levetta quasi al centro del sotto il microfono. Non lo so, ma sarà il tuo levetta già. Ma non sarà per non scaricarsi le batterie che si spegne da lì? Non lo so, Natalino, tu c'hai una levetta sotto il turner, una levetta tipo l'MC60. Sì, adesso che la guardo, sì. Oh, cazzo di aro. Allora il tuo non è originale, cazzo me lo vuoi vendere a me 150 euro? Vai, che non mira, vai, non è originale. Quello è tenuto dalla bajur. Oh, ma non so cosa serve, io mosso non serve a niente. Non so, c'è comunque Massimiliano, c'è. Forse in alcuni sì, in alcuni no, Il mio non c'è. Quello del tartarino c'è, hai visto? Visto. C'è scritto da una parte relay e dall'altra non si legge. Esatto, anche questo. Relay e dall'altro non si legge, oggi l'ho preso. Allora, adesso provo a spostarlo perché c'ha tre posizioni. Guarda, Massimiliano, stai attento. Da questo passaggio, questo, ok? 1, 2, 3. A quest'altro passaggio non cambia niente la tonalità della voce. No, assolutamente no. E la mazza che te ne vai. Vabbè, ci abbia le luci. Avanti, doppio route. Io mi sto preparando per portare il cane. Asco, sei proprio non te ne fai niente dall'arme. No, preferisco tenerlo col pulsante, ma no, anche senza pulsante. Vai a portare il cane, buona passeggiata. No, adesso mi preparo prima, che sono senza montagna e mi devo vestire. Esagerato. Allora, no, stavo sbagliando, senza scarpe sono. Non si metta con l'altra base. Base per la testa di chi c'è lui. Sì, attacca e sacca, mi raccomando. Lascia nulla invece, attacca e sacca, cazzo di tutti li devo far girare, no? 1, 2, 3, 4, 5 li devo far girare. E falli già mettere sotto terra, lasciane uno e boh, trovate vicino che tu stacchi attacca, sposta qui, sposta là, ce n'hai uno e boh, quando poi fai il lavoro devi fare, allora li fai girare come si deve. Flipper che fine ha fatto? Oh, stava cercando un delfino. Ehi, ehi, vai, io mi sto mettermi le peppe, e poi portiamo a Peppendo, e poi ceno. Castruccio, ho saltato il pranzo per la prima volta, Ma io no. non ho saltato proprio, ma si vede, perché mi ha chiamato mio cognato a 1:15, sono uscito, sono rientrato alle 2:30, anzi 3:15, e già non avevo più gara, mi ho mangiato due mandarini e buco. Ui, una bella fettina di cavallo e via. No, non mangiamo il cavallo qua. Manco Manuela ne mangia, né cavallo né conigli. No, c'è i cavalli qua, se ti tendi l'aria, fate voi mamma, io lo so, c'è la moglie i cavalli, mia nipote, la figlia di mio fratello, c'ha due cavalli, e no, è un animale che no, a me non piace mangiarlo, assolutamente. E vabbè, tanto mosso era, non è che abbiamo stato io. Andiamo, non tutti, ma non mangio i cavalli. Assolutamente, dai, fatemi mettere le peppe e poi già sono qua in radio io, dai. Quindi già ne posso lasciare questo, il microfono, e posso lasciare anche l'altro, dai, non cambia niente. Infatti, due insieme non li puoi attaccare intanto, invece io sì. Se mi ridi a tutti e due, l'attacco RS9 80, c'è due attacchi. Infatti, io così il DAC lo lascio stare senza microfono. Il Galaxy lo lascio stare senza microfono, secondo te. Da giusto io vado in radio, ognuno ha il suo microfono, anzi, ne ho due di scorta, di cui uno lo devo dare a una persona, sto aspettando che ritiri lo stipendio perché deve venire a prenderselo, e l'altro me lo tengo di scorta di MBP5, però, perché li ho comprati nuovi, tutti e due, capito? E gli altri hanno tutti i microfoni da tavolo, tutti. Adesso c'ho un microfono per un apparecchio, non è che, solo che adesso io ho spostato la Static sul Galaxy, perché ho messo quello che c'era nel Galaxy, l'ho messo nel Cobra, capito? Io ho capito, te ne occupare di un altro, mi c'è Flipper che sta dando la tua Static. No, io c'ho tutti, già lo sai, i microfoni, uno per ogni radio, non li posso dare. Poi sono testati tutti fatti bene, capito? Ho voluto prendere un MBP5 nuovo per mettere il connettore all'Intec che mi hai dato tu, che c'è il connettore a 5 e gli altri sono tutti a 4, quindi... Avanti Massimi, riprendi tu, fai girare che io mi vesto, dai, fate gli scherzi, se no non vado più a portare il cane. A dopo, ciao a tutti, ciao! Ok. Buia! A quella persona gli volevo dare il 60, ma ha detto che però ha già dato la parola con te. A quella persona le volevo dare 60, però ha già dato la parola con te. È una cosa che non mi quadra. A quella persona che sta aspettando un stipendio, ha detto, se vuoi io ti voglio, c'è un 60, e lui mi ha già la parola, no, allora no, c'è già la parola con un altro per un altro microfono. Non c'è nessun problema, se devi chiudere chiudi, non c'è nessun problema per me, io volevo dare quello per essere un po' più stracobarato, capito? Però siccome quel microfono è stato fatto particolarmente solo per quella radio, però mi tiro fuori, non c'è problema, perché già non lo volevo vendere, però per aiutarlo e toglierlo, capito? Però mi tiro fuori lui, tranquillo, te lo dico davanti a tutti, se devi darglielo il 60 darglielo, anzi sono ancora più contento che abbia quel tipo di microfono. È per quello che gli ho detto, ma io meno di 60 lo do. Meno di? 6-0, non lo do. Quello le sto dando allo stesso prezzo io, quindi dalle quello lì, lui. Dalle quello, fregate, non ti preoccupare di me, no, non ce n'è problema. Io me lo tengo di scorta quello lì. Daglielo, se vuole quello lì, daglielo, almeno c'è un microfono buono. Ah, devi parlare tu con lui, lui ha detto che ha la parola, già con te, è così che giustamente, infatti io mi sono tirato indietro, non lo sapevo, così che ho detto, no, allora se hai già la parola, io non ho fatemi andare a portare il cane, se no mi piscia le scarpe. Vai Massimiliano. Io sono qua, va, e anch'io ho fatto fare i passaggi e poi me ne scendo giù, sono venuto oggi la bugia di Rog, cappa, e beh, infatti, almeno c'è la uguale alla radio, vai lui. Infatti, chiara, perché sta facendo male, non so quale microfono stai usando, ma da ieri io lo sentivo mezzo stato, spostato di frequenza, Maria, tutto. E dice il microfono, quello tirava e non usciva di radio. E dice il microfono, però già, adesso me lo devo prendere, no, perché tu dici, io c'ho 60. E no, però ho già dato la parola a questo, no, allora no, allora mi tiro indietro. Il cavo sicuramente è attaccato a qualcosa. Poi vabbè, vediamo un po', Gianni, cosa hai cambiato adesso? No, non ho cambiato niente, dai. Prima che poi succeda qualche cosa, perché Claudio ha detto l'ho cambiato, meglio di non cambiarlo. No, già, ti giuro che mio fratello non voglio essere pindaccio, però cazzo, io con l'esperienza avuta a mio dato, tutto così. Quando ogni tanto magari lo accendi, anche io li accendo ma non c'è un punto, la secca tutto come te, dammi retta. No, cioè, no, no, quando cambio il filo poi lo tutti, dai. Infatti anche l'altro l'ho staccato subito, non c'è che entri RF, faccia dentro di RF di nuovo. O carica elettrostatiche, boh, più che altro. Vabbè, dai, ti prendete. Bravo, lasciane uno come hai stabilito, fammi retta. Poi, ordinati un bel commutatore, anche a tre, e ti metti le radio principali come ho fatto io. E boh, e tutto il resto è noia, anche se li accende, non va in trasmissione, già va bene lo stesso. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Luca, ho già mandato un messaggio a quella persona là, ok? E l'ho autorizzato nel modo più assoluto a fare l'operazione. Luca non ha ripreso sicuramente, mi sta rispondendo, no? E come verrà a fare così già, un bel commutatorino lì, arriva il commutatore, 3-4 spezzoni, io l'avrei preso più a 4 uscite, o già, e poi un bel commutatore serio, e così fai, ogni spezzone c'è, cioè, 4 radio, ogni spezzone, tu non fai altro, non giri pulsante senza stare lì a... Giustamente non li puoi avere tutti sotto il rosmetro, magari ti puoi tenere uno sotto il rosmetro, capito? E tutti non li puoi avere, e gli altri te li tieni così, se non hai stazionari non c'è bisogno di tenerli sotto il rosmetro, capito? Io ne ho solo uno sotto il rosmetro, gli altri sono tutti senza rosmetro. Però se voglio parlare con l'altro basta dire giro pulsante e parlo con l'altro. Accendi e se fate bene, non mi fai ieri staccando, raccaccando, capito? E poi lavora anche più ben fatto, va. Ehi, vabbè, già non mi costa molto, io sono a due passi, fallo, giro, tolgo, metto. E magari la gara se c'è stanca più di campo, capire di mettere entrare sempre lo spinotto, capito? Piede. E attaccati il filo, perché poi il filo risulta fine corsa e magari toccando va attaccato. Bravo, infatti è per quello, una volta che tu mi cambi il radio, fatto devi sganciare, mettere all'altro, ti bisogna fare il baffo, magari tra mezz'ora devi cambiare il radio, ti devi rialzare, sganciare, capito? Non solo per comodità, il commutatore, ecco. E infatti, cappa. Vabbè, chi è rimasto? Vado profetta, è andato via. Vado profetta, adesso, gli arrivo subito, non si è più fatto intendere. Sembra che ci sia Flipper, non so se c'è ancora, boh, Luca ci sei. E vabbè, va, Luca già sarà qua, ma se la nascosto. Poi non so, chi è rimasto qua? Che era nata lì, non mi ha poco dietro, non mi nessuno. Tutti morti. E vabbè, va. Comunque, quindi, questa non confermi che va bene già. Cappa. Ma già, comunque questa mi confermi che va bene la radio, sì. Va bene, Massimiliano. Ok, va bene. Cappa Brioscia. Va bene. Ma già, io allora me ne scendo giù, qua, spengo tutto, me ne vado giù e vediamo cosa c'è da controllare poi giù e iniziare a fare qualcosa, no? Sì, e io vado a portare il cane, già dopo magari si sente. Rex, ok, ciao, già ci sentiamo, saluto a tutti quelli che sono in ascolto, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao Massimi, a più tardi se coincide, bye bye. Non è possibile, veramente, guarda. non ho tirato né niente, cioè da problemi buona fa che cambia radio già che mi ha già rotto le palle. Ora, adesso sta uscendo? Sì, ya. E quanta di modulazione? Forte, un po' al limite, dipende se parli molto vicino. Guarda vedere adesso, migliore. Ehi, mancavi a tratti, è come se ci fosse un falso contatto. Chi è l'altro? California? No, continuo di riserva, c'è Marco. Bellissimo, ma con questa vocione ti ho preso per California. Oh, Tobà ha piazzato l'antenna sul tetto, mi. Ma io l'antenna sul tetto l'ho piazzata. 9.25 così. Aspetta, sono contento. Allora qualcuno mi ascolta e mi dice che esco bene. A voi che ti ascoltiamo, Anto. Hola. Uso il baracchino, ma cosa non mi piace. Non mi piace che c'è cosa. Anto, guardi bene la modulazione. Come se arrivato a un certo punto il picco di modulazione si comprimesse e sparisse completamente del tutto. Ehi, esatto. Che dire, potrebbe essere anche un falso contatto, oppure potrebbe essere anche qualcosa della radio che non riesce a, come si dice, a sopportare quel limite dell'LC, allora non ha del potenziale. Ma Marco, cosa si dice? Boh, niente, oggi sono fatto un giretto, litoranea. Caspita, non vedevo Platamona da mesi. Ho aspettato la zona gialla, ho pigliato un caffè in Gensenga Polo Torres, un diretto senza impegno, dai. Anche perché movimento ce n'è poco, la gente è ancora tra la razza, da vivere il terrore la gente, capito? Anche di bar sì, qualcuno già c'era, ma niente di che, poco movimento. E poi conta che è un giorno lavorativo oggi, forse sabato o domenica capirei, però oggi era lavorativo per gli altri, a parte per me che sono in pensione già dalla nascita. No, non è quello, è che le persone oramai si sono talmente abituate che anche se non hanno un motivo per uscire la mattina, non riescono a prescindere, ormai sono abituate. Prima all'inizio hanno fatto un sacco di studi, ma perché non ci fate uscire, ma non si può stare chiusi dentro casa, ma non siamo mica in galera, ma più quelli che là, adesso molte persone hanno scoperto il piacere di stare a casa. Ecco, mi sentite? Sì. Va. Ciao, mi aggiro. No, non ho voglia la verità, va bene questa. Ma prima cosa stai utilizzando? Un'altra radio stavo utilizzando. E si può sapere che radio era? Un altro baracchino. Però c'ha problemi al microfono. È andato un marighito. Cioè, a buon viso, eppure non l'ho tirato, non gli ho fatto niente. Posso dire una lettera? No, non dimmi una lettera. Ok, va bene. Sì, qua va bene. Vai Antonio. Sì, va bene, ho capito la lettera, ma letto. K, la lettera K, la mia curiosità era. Vabbè, dai, no. Non so cosa stavo utilizzando prima, non so perché, non so per dove, niente, quindi non posso fare alcun commento in merito. Normale amministrazione, ci mancherebbe, non sono segreti di Stato, anche se fossemi. Chi è che non ha avuto un K in 27? Pochi, io anche in macchina l'ho messo una volta, con la cintura l'ho tenuto fermo, se no, capito, era sul sedile, staffe non ne avevo. Così tanto per ascoltare, però. No, invece qui che ho io la 127 avevo addirittura anche la lampada della 112, ha avuto la staffa col piccolino, no vabbè, il piccolino ancora non è.